36. Zuppa santé. Questa zuppa si fa con diverse qualità di ortaggio qualunque. Dato che vi serviate, per esempio, di carote, acetosa, sedano e cavolo bianco, tagliate questo a mo' di taglierini e fategli far l'acqua sopra il fuoco, strizzandolo bene. Le carote e il sedano tagliateli a filetti lunghi, 3 centimetri circa, e insieme col cavolo e con l'acetosa nettata dai gambi, poneteli al fuoco con poco sale, una presa di pepe e un pezzetto di burro. Quando l'erbaggio avrà tirato l'unto, finite di cuocerlo col brodo. Frattanto preparate il pane, il quale bene sia di qualità fine e raffermo di un giorno almeno. Tagliatelo a piccoli dadi e friggetelo nel burro o anche nell'olio vergine o nel lardo. Ma perché assorba poco unto, tenete quest'ultimo abbondante e gettateci il pane quando è bene a bollore, altrimenti arrostitelo soltanto a fette grosse mezzo dito e tagliatelo dopo a dadi. Ponete il pane nella zuppiera, versategli sopra il brodo a bollore insieme con l'erbaggio e mandate la zuppa subito in tavola. Usando i ferri del mestiere si possono dare agli ortaggi forme graziose ed eleganti.